Parliamo ora di fotografia. L'importante è vedere. Incontri e mostre sulla fotografia 24 e 25 giugno alla Casa della Cultura di Villa De Santis in via Casilina 669 con Damiano Rosa. Damiano, ci sei? Sì, ci sono. Eccoci. Ciao. Ben ritrovato. Come va? Grazie. Tutto bene. Un anno è passato già. Eh sì. No, qui. Senti, fotografia a Centocelle, allora raccontaci un po' di questa esperienza. Sì, ormai sono diversi anni che ci impegniamo con l'Associazione Culturale del Geranio di Centocelle a promuovere la cultura fotografica e con questa nuova edizione di L'Importante è Vedere, che è una rassegna di varie cose, perché c'è la mostra fotografica degli allievi del workshop e laboratorio che ha fatto Angelo Duretta, che è una new entry del Geranio, un grande fotografo di scena e reporter di cronaca, e che appunto con i suoi allievi ha creato questa piccola mostra che sarà esposta nei locali della Casa della Cultura. Ci saranno poi dei miei allievi dei corsi che tengo ormai da anni al Geranio, che esporranno anche loro, e questo avverrà il 24 giugno, quindi sabato, dalle ore 18. Ci sarà una conferenza con Turetta che ci parlerà del suo lavoro ormai di diversi anni, che copre grandi film d'autore, e la sera alle 20 ci sarà Fotocinando, che è l'altro appuntamento ormai storico del Geranio, che è un concorso praticamente, un contest dove chi vuole può mandare le foto. Ancora siete in tempo, quindi se andate sul sito del geranio.com troverete tutte le istruzioni per partecipare. Si proietteranno le immagini, si cenerà, quindi fotocenando, proprio questa idea di cenare e guardare le immagini, e verranno premiate le foto migliori e il presidente sarà Turetti, quindi insomma uno sguardo competente a queste immagini. Mm-hmm. E continuiamo poi con domenica, ci sarà ancora la mostra, chiaramente le mostre anzi, e alle 19 ci sarà questo Le Voci dei Fotografi, che è un'idea che ci è venuta già l'altro anno, ha avuto un grande successo. Ci saranno Toni Carrani, Roberta Caronia, Jacopo Venturiero, Margherita Mastrone e la musica dal vivo di Massimo Nunzi alla tromba, e leggeremo dei passi scritti in prima persona da Dan McCallin, grande reporter di guerra, Tina Modotti, che insomma non ha bisogno di presentazioni, Douglas Kirkland, famoso per le sue foto a Marilyn, proprio di questo famoso episodio leggeremo il racconto, e Annie Leibovitz, una grande fotografa di personaggi del cinema, della musica, dello spettacolo. E insomma vi aspettiamo, l'ingresso è gratuito, l'ingresso è aperto, solo per Fotocenando è richiesta la prenotazione, quindi bisognerà chiamare il Geranio, trovate tutto sul sito geranio.com, e speriamo insomma di avere il successo che abbiamo sempre avuto, visto che Centocelle è un posto ancora da vivificare culturalmente. Bene, Damiano, ci dai tutti i riferimenti web per le informazioni? Sì, allora potete scrivere a info@geranio.net, infatti ho sbagliato, non è .com, è .net, il telefono è 06 2312 458, lo ripeto, 06 2312 458, la segreteria è aperta dalle 16 alle 19:30, quindi potete chiamare, e altrimenti su Facebook il Geranio o Fotocenando, che è un gruppo abbastanza nutrito, e troverete tutte le indicazioni. Comunque il posto è la Casa della Cultura di Villa De Santis, via Casilina 669. Conviene parcheggiare su via dei Gordiani, che è la traversa, che su via Casilina è impossibile parcheggiare. Damiano, un abbraccio e un in bocca al lupo. Crepi. Grazie a ciao. Te e al prossimo anno allora. Ciao, ci vediamo lì. Ciao, grazie, ciao.